noi, ma non guardiamo il mare come i gatti o i matti sognano. Noi sì, però, che abbiamo sempre fame e il mondo è di cristallo da guardare. Noi nel gioco delle parti di lei, noi le mani sue, noi che teniamo a tutto perché per mano cambia un attimo. Noi sì, però, che trasportiamo il sale d'essere leggeri e seri navigare. Noi nel gioco delle parti di lei, noi siamo i pezzi di Luisa, siamo le parti di Luisa, la nostra somma fa Luisa, ci metti insieme e c'hai Luisa. E che testa io, pensare mi commuove e mi emoziono senza dirtelo. Io sì, però, che posso naufragare, tanto è già un piacere ritornare. Io nel gioco delle parti di lei. Eccezionali, noi ricambi originali, noi che siamo pezzi cari a lei. Noi siamo i pezzi di Luisa, siamo un totale di Luisa, la nostra unione fa Luisa, l'intersezione fa Luisa. Noi siamo i pezzi di Luisa, sembra scomposta ma è Luisa, disintegrata ma è Luisa, ci combiniamo e po' Luisa. Noi che viviamo con Luisa, noi ci svegliamo con sensi di lui.